Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera parliamo del vero, autentico e inscalfibile nemico di tanti di noi, e cioè la burocrazia. Abbiamo fatto di tutto in questi anni per cercare di ridurle il potere, abbiamo fatto anche dei ministeri che dovevano ridurre la burocrazia, ma non siamo mai riusciti a cambiare nulla, nonostante alcune buone intenzioni manifestate da alcuni ministri e da alcuni governi. Il potere della burocrazia sembra appunto intoccabile, intangibile, un vero proprio grumo di potere fatto dai signori del tempo perso, come li definisce nel titolo i burocrati il libro di Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri. Francesco Giavazzi è un economista di fama internazionale, editorialista del Corriere della Sera, che ha avuto anche esperienze che lo hanno portato a conoscere alcuni ministeri, in particolare il Ministero dell'Economia, dove è stato dirigente generale. Giorgio Barbieri è un giornalista del gruppo L'Espresso. Insieme hanno scritto questo libro, che è pubblicato da Longanesi, 15 euro. Il sottotitolo del libro è altrettanto eloquente: I burocrati che frenano l'Italia e come provare a sconfiggerli. Come mai si è costituita questa casta inamovibile contro la quale si esaurisce qualunque tentativo di riforma e di cambiamento? Quali sono i prezzi della paralisi alla quale questa casta dà vita? E quali sono le ragioni di tanto potere? Ci sono speranze per uscire da questa situazione? Queste le domande che si pone questo libro, che parte con un curioso paragone storico di successo in quel caso, cioè l'impegno dell'imperatore giapponese Muscito, che nella seconda metà dell'Ottocento riuscì a ridurre il potere, che sembrava anche quello intangibile, dei samurai, e ci riuscì con incentivi economici che contribuirono fra l'altro a favorire il sorgere della potenza industriale del Giappone. Insomma, cambiare si può, e ci ha provato di recente anche la ministra Madia, contro la quale si sono poi coalizzati appunto i burocrati, sostanzialmente sconfiggendo ogni tentativo di riforma. Perché questo insuccesso? Perché questo potere? E infatti si chiedono i due autori. Renzi dovrebbe chiedersi perché ha perso nel tentativo appunto di riformare la burocrazia, aggiungo io. Innanzitutto rispondono: ha sottovalutato la forza della burocrazia, che deriva dal fatto che difficilmente si può varare una nuova norma contro il parere della giustizia amministrativa, e quindi bisogna ricorrere all'astuzia, consigliano i due autori. L'astuzia dimostrata appunto dall'imperatore Mutsuhito, e cercare di spostare la burocrazia dalla propria parte, inglobandola con compensazioni adeguate. E allora sentiamo da uno dell'autore, Francesco Giavazzi, alcune riflessioni su questo tema. Buonasera Francesco Giavazzi. Buonasera. Francesco Giavazzi, lei ha scritto questo libro con Giorgio Barbieri. Innanzitutto, quali sono i costi che i signori del tempo perso impongono all'economia e alla società italiana? Come dice il titolo, il costo maggiore è il tempo perso, e cioè che, per motivi che cerchiamo di spiegare nel libro, le procedure che potrebbero avvenire in tempi relativamente rapidi vengono protratte per anni, con danni poi irreversibili. Quindi il costo maggiore è il tempo perso. Ricordavo poco fa che il suo libro inizia facendo un ardito parallelismo tra l'esperienza di un imperatore giapponese che a metà dell'Ottocento riuscì in qualche modo a riformare la burocrazia di allora, i samurai, e invece l'esperienza fallita sostanzialmente del governo Renzi. Che cosa può insegnare l'esperienza giapponese alla situazione italiana? L'esperienza giapponese insegna, mi pare, due cose. Siamo nel Giappone di fine dell'Ottocento, quando i burocrati del tempo erano i samurai che impedivano l'apertura del Giappone al resto del mondo dopo secoli di chiusura. E l'imperatore agì in due modi: da un lato cercando prima di comprarli, cioè di farli passare dalla propria parte, e infatti introdusse degli incentivi per cui questi samurai si trasformassero in imprenditori, soprattutto nelle zone del Giappone allora meno sviluppate. Questo per alcuni funzionò. E poi, per quelli che invece non accettavano nemmeno questo compromesso, gli fece la guerra, cioè fece una vera guerra, che vinse, perché lui aveva ormai una tecnologia da paese avanzata e quelli avevano le spade, e quindi li eliminò. Quindi a un certo punto bisogna essere decisi. Uno degli elementi che a vostro parere giustifica, spiega meglio l'aumento della burocrazia e il peso paralizzante della burocrazia, è l'ipertrofia delle regole. In che cosa consiste? Ce la vuole spiegare? Questa è una vecchia discussione che risale agli Stati Uniti dell'Ottocento, cioè un burocrate esiste in quanto deve amministrare una regola. Quindi uno, se uno dice come faccio a ridurre il numero dei burocrati, beh, il modo più semplice è ridurre il numero delle regole, delle leggi, ciascuna delle quali richiede un burocrate che l'amministri. Negli Stati Uniti, fino sostanzialmente all'introduzione delle ferrovie a fine dell'Ottocento, c'erano pochissime regole e le diatribe, le controversie fra cittadini o fra cittadini e società venivano risolte dai giudici, dalla giustizia civile ordinaria. Quindi non c'era bisogno di regole, uno andava da un giudice, il giudice diceva chi aveva ragione, chi aveva torto. Poi anche gli Stati Uniti si andarono verso quello che si chiama lo Stato regolatore, perché quando si introdussero le ferrovie non c'erano precedenti, qui era un po' difficile per il giudice decidere come trattare il caso in cui la locomotiva incendiava i campi accanto e il contadino doveva essere risarcito. E allora si cominciavano a introdurre delle regole. Le regole sono, facciamo un esempio, una centrale nucleare ovviamente ha bisogno di regole, non si può lasciare alla giustizia civile, però tante cose, noi in modo paradossale diciamo anche molte cose che hanno a che vedere con la sicurezza sui posti di lavoro, forse anziché decine di corsi inutili sarebbe meglio che fosse un giudice a decidere se un imprenditore si è comportato bene o male, e la reputazione indurrà quell'imprenditore a adottare delle regole di sicurezza adatte. Voi stessi però sottolineate quanto sia indietro la giustizia civile in Italia, quindi come potrebbe difficilmente garantire questi obiettivi. Certo, infatti per seguire questa strada, che poi non è una nostra invenzione, quello che Milton Friedman scriveva negli anni 50, appunto ricordando gli Stati Uniti pre-stato regolatore, richiede una giustizia civile rapida ed efficiente. Questo è il maggior ostacolo. Però questo è interessante, dice che allora forse il fulcro dell'attenzione, prima ancora che i burocrati, sta posto su una giustizia civile efficiente che consentirebbe di spostare nel campo dell'arbitrato, delle cause civili, cose che adesso richiedono i burocrati. Secondo voi eliminando i TAR magari? I TAR sicuramente, cioè c'è tutta una sovrastruttura che sta lì a proteggere. Perché cos'è che succede? Perché ci sono questi tempi così lunghi che poi sono il costo maggiore? Perché un burocrate non ha nessun costo, se facendo un ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, chiedendo un altro parere, si para dalle possibili critiche, dalle critiche della Corte dei Conti, quindi per lui aspettare non costa nulla. Al vantaggio che diminuisce i rischi che si prende, e poi dopo se questo ha dei costi per la società, per il paese, perché le decisioni non vengono, quello non è un problema suo. Per quello che io alla fine del libro diciamo, forse è meglio arrendersi, cioè prima della legge Bassanini che cambia il rapporto tra politica e amministrazione pubblica negli anni 90, la responsabilità era in capo ai politici. Noi sappiamo che sono mille ragioni per cui non vogliamo avere la responsabilità in campo ai politici, però un politico almeno, se non fa riparare il caso di oggi, il ponte di Bassano costruito da Palladio che rischia di cadere perché la burocrazia non si è messa d'accordo su come farlo, e se la responsabilità è del sindaco di Bassano e il ponte crolla, questo qui non verrà mai più rieletto. Quindi forse se non si riesce a farlo, forse è meglio ridare la responsabilità alla politica. Poi c'è l'altro aspetto rappresentato dallo scarso peso che ha il mercato, dallo scarso spazio che si dà al mercato, e questo facilita naturalmente il sovrappeso dei burocrati. Beh, certo, anche lì più norme uno introduce che limitano la capacità dei cittadini di avere relazioni economiche libere, di un mercato libero, più anche lì, siccome sono tante norme, ci vogliono burocrati che li amministrano. Nel libro facciamo un esempio un pochino autobiografico, cioè quando a me fu chiesto dal governo Monti di fare un programma per la riduzione degli aiuti pubblici alle imprese private, le obiezioni non vennero da Confindustria o da chi rappresentava le imprese che ricevono questi aiuti, le obiezioni vennero dai burocrati del Ministero dello Sviluppo Economico, che perdevano non il posto, che non lo perdono mai, ma perdevano il potere che va insieme ad amministrare 10-20 miliardi di aiuti di Stato. E voi ricordate anche uno studio dal quale emerge come la diffusione della corruzione sia strettamente legata a questo aspetto, all'aumento dell'intervento pubblico. E beh, certo, perché il povero imprenditore, se dopo mesi o qualche volta anni in cui ha bisogno di qualcosa e questa cosa non deve allargare un capannone, non gli danno mai il permesso di farlo per motivi mai spiegati, no? Non perché c'è un motivo ambientale, ma semplicemente perché ritarda la decisione, forse lui gli viene in mente che se va a dare una mazzetta a quel burocrate, forse il capannone lo allarga e alla fine cede. E è citato un esempio clamoroso, quello della Georgia, uno dei paesi più corrotti della terra, che a un certo punto, per combattere la corruzione, ha per esempio abrogato la polizia stradale. In Georgia si fa una cosa straordinaria, perché quando è finito il regime sovietico, il nuovo governo, c'è questo problema endemico della corruzione dei vigili della polizia stradale, l'ha abolita. Da un giorno all'altro non c'era più vigili, c'era più polizia stradale. La cosa forse non sorprendente, ma un pochino lo è che il numero di incidenti non è aumentato, cioè i cittadini hanno continuato a girare per le strade, i semafori funzionavano e non c'erano i vigili, ma tanti vigili erano lì solo per riscuotere la tangente, non per far funzionare il traffico. È un caso estremo ma divertente di quello che accade. Il vostro libro si conclude con una parte propositiva, e questa parte propositiva si ispira a Ulisse, all'Ulisse omerico che si fa legare per non cedere agli incanti delle sirene. Che cosa ci può insegnare Ulisse oggi? Ulisse sta lì a dire che non tutta la burocrazia è da buttare via, ci sono dei pezzi della burocrazia che è buona ed è utile. L'esempio di Ulisse è proprio in questo senso, cioè Ulisse si fa legare all'albero della nave e mette la cera nelle orecchie dei marinai, perché sa che è arrivato davanti all'isola delle sirene, lui vorrà fermarsi, ma sa anche che sarebbe un disastro fermarsi, quindi vuole mettersi la condizione di non dare ai marinai, cioè di dare ai marinai l'ordine, ma che loro non lo sentono, quindi tirano dritto. Che ci sono delle, che sono poi le autorità indipendenti, dalla Banca d'Italia, le autorità per l'antitrust, l'autorità per l'energia, che sono importanti, ed è importante che siano indipendenti dalla politica, non controllabili dalla politica, come i marinai rispetto ad Ulisse. Quindi che ci sia una buona burocrazia, ci sia necessità di una buona burocrazia in alcuni casi è sicuro, però non è tutto, insomma, da lì alla miriade di burocrati della Repubblica c'è un grande passo. Grazie a Francesco Giavazzi, autore con Giorgio Barbieri dei Signori del Tempo Perso. Buona serata. Grazie mille, arrivederci. Grazie. La forza della burocrazia è una costante nella storia d'Italia, allora vale la pena di rileggersi in maniera rapida e anche inconsueta la storia del nostro paese, scritta da un celebre giornalista, Giancarlo Perna, autore di Storia d'Italia in un'ora, pubblicato da Clichy, 138 pagine, 12,90 euro. Per la verità, la storia che considera Perna è quella dell'Italia unita, ma sintetizzare in più di 150 anni di storia in poche pagine è comunque un'impresa, e Perna riesce a riassumere i tratti della storia del nostro paese in una cronaca scritta come un lungo reportage, fino ad arrivare ai giorni nostri, che ai suoi occhi sembrano farci tornare al punto di partenza, cioè quell'unità d'Italia che dobbiamo a Cavour e che noi stiamo facendo di tutto per sfasciare. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Primo maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ma in questo giorno sono ancora troppi quelli che il lavoro non ce l'hanno o addirittura hanno smesso di cercarlo. Cosa chiedere alle istituzioni e alle parti sociali? Com'è possibile conciliare le tutele di un lavoro duraturo e la flessibilità produttiva che la globalizzazione chiede alle imprese? Radio 24 affronta questi temi coinvolgendo esperti, rappresentanti di istituzioni, imprese e sindacati. Speciale primo maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Con Vincenzo Miglietta, alle 8:15 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubbe. Il 5 maggio parte da Alghero il Giro d'Italia, che si concluderà a Milano poi il 28 dello stesso mese. Questa edizione è un'edizione molto particolare del Giro d'Italia, perché è la 100ª edizione. E allora vi segnalo di Giacomo Pellizzari, che è un giornalista esperto in particolare di biciclette e di ciclismo, il libro Storia e Geografia del Giro d'Italia, che è pubblicato da UTET. 236 pagine, 15 euro. Secondo l'autore, prima ancora che i campioni, i protagonisti del giro sono soprattutto i luoghi dove il giro si svolge e si è svolto. E scrive infatti Pellizzari: le vere star della corsa rosa non sono Coppi, Bartali, Gimondi, Pantani o Contador, bensì i passi, le valli, i fiumi, le città, i borghi, le pianure, scenari mozzafiato divenuti ben presto iconici, autentici simboli delle due ruote, perché legati a un episodio, a un'impresa o a una storia speciale da raccontare. E queste storie speciali racconta appunto Pellizzari. Si parte ovviamente da dove partì la prima edizione del Giro d'Italia, il 13 maggio 1909 a Milano. Quella edizione, quel Giro d'Italia, fu il frutto di una competizione tra due giornali, la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, che ambivano entrambi a organizzare questa iniziativa. Arrivò prima la Gazzetta e si avviò quindi l'avventura che arriva adesso all'edizione dei 100 anni, in seguito naturalmente alle interruzioni dovute alle guerre. Il libro quindi non è organizzato per anni o per campioni, ma appunto per luoghi, quelli che hanno dato il nome alle tappe più famose e appassionanti. Per esempio l'Abetone, dove esplose il 29 maggio del 1940 la grandezza di Fausto Coppi, che Pellizzari così rievoca. In testa, in fuga da 40 chilometri, c'è un toscanaccio doc. Si chiama Ezio Cecchi ed è di Larciano. Corre per il Team Gloria. Già il nome è tutto un programma. Alle sue calcagna, tra ombrelli aperti e impermeabili chiusi, a destare stupore è però un altro ciclista. Quello rachitico con la vena della gamba che si gonfia. Ha già recuperato minuti preziosi e ora attacca la salita che sembra una furia, con una cattiveria mai vista in questo Giro d'Italia, tanto che pare quasi stonare con il suo fisico minuto e sgembo. Il giovane ha 20 anni e poco o nulla sa di questa salita, anzi poco o nulla sa proprio di tutto il Giro d'Italia, una cosa più grande di lui. Del resto è lì, esordiente assoluto, a fare il gregario. Niente fughe, niente colpi di testa. Il suo capitano è Gino Bartali, non uno qualunque, ma il ciclista più forte e più amato d'Italia. La sua squadra è la Legnano, e alla Legnano, lo sanno tutti, si corre soltanto per Bartali. A vincere deve essere lui e nessun altro. Ordini di scuderia. E poi Bartali è anche toscano. Vorrei mica non fargli vincere una tappa a casa sua, sull'Abetone, dove i suoi antenati venivano a cercare refrigerio. Il rachitico e sgraziato ventenne si chiama invece Fausto. Di cognome fa Coppi ed è nato a Castellania, dalle parti di Tortona, tra le risaie e la bruma piemontese. Raramente si è mosso di casa prima di questo Giro d'Italia. L'ha voluto in squadra proprio Eberardo Pavesi, direttore sportivo della Legnano, perché gli sembrava avesse una strana luce negli occhi e la giusta voglia di faticare. Ingredienti fondamentali per fare il ciclista. Un giornalista sportivo, che in questo caso grande esperto di tennis, che ormai da tempo si dedica alla narrativa, è Gianni Clerici, di cui esce Diario di un parroco del lago, pubblicato da Mondadori, 178 pagine. Questa è la storia di un giovane prete, erede di una facoltosa famiglia di imprenditori comaschi, che si trova a fare il pastore d'anime in un piccolo borgo sul lago, al centro soprattutto di traffici di piccolo contrabbando nel secondo dopoguerra. Il titolo riecheggia naturalmente il problematico diario di un curato di campagna di Georges Bernanò. Qui invece c'è più tenerezza verso le piccole storie del proprio gregge, raccontate in un originale impasto linguistico che dà alle storie un senso di vita vissuta e di appartenenza a una comunità. E poi c'è la storia del giovane prete, che si concluderà con un colpo di scena che conferma l'umanità e la simpatia del personaggio. Adesso vi segnalo 3 mete artistiche per i prossimi giorni e i prossimi ponti. Vi ricordo che a Conegliano è in corso una mostra curata da Gian Domenico Romanelli su Giovanni Bellini e i suoi seguaci. La mostra è aperta fino al 18 giugno, il catalogo è pubblicato da Marsilio. In questa occasione vi segnalo un libro di Edgar Wind, storico dell'arte di origine tedesca, morto a Londra nel 1971. Il libro si intitola Il festino degli dei di Giovanni Bellini, tradotto da Rossella Rizzo per Abscondita, 142 pagine, 20 euro. È un libro ricco di molte illustrazioni, nel quale l'autore affronta il tema del rapporto tra arte e letteratura, partendo dal capolavoro di cui si parla, appunto Il festino degli dei, uno dei pochi di Bellini con divinità pagane, e un quadro che si conserva alla National Gallery di Washington. Ma questo tema delle divinità pagane è trattato da Bellini con molta ironia, perché, scrive l'autore, ridere con indulgenza degli dei pagani divenne un segno della grazia umanistica trasmessa dai poeti agli scrittori. Poi, se andate o rimanete a Milano, c'è la grande mostra su Manet a Palazzo Reale, in corso fino al 2 luglio, curata da Guy Cogeval con Caroline Mathieu e Isolde Plumarché. Il catalogo di questa mostra è di Schirà, e in questa occasione vi segnalo un libro pubblicato da Bompiani di Franco Rella, che è un filosofo e saggista, che si intitola Il segreto di Manet. 188 pagine, 11 euro. Questo è un libro che si ispira, per le considerazioni su Manet, ad alcune pagine di Georges Bataille. L'autore, grazie a queste pagine, si riaccosta appunto a Manet, cogliendone un segreto, quel segreto che lo avvicina a tanti grandi artisti a lui successivi. E qui abbiamo quindi un libro ricco di rimandi all'opera di Manet, naturalmente, ma anche a molte opere letterarie a lui contemporanee, e non solo, e a tanti altri artisti. Sentiamo dal libro alcune riflessioni su Manet, ispirate anche a uno dei capolavori che potrete ammirare alla mostra di Milano. Credo che ciò che in primo luogo mi ha colpito nei quadri di Manet siano gli occhi e gli sguardi dei suoi ritratti, che provocano, come dice Bataille, un malaise, una sensazione di malessere. Cosa o chi o dove guarda la donna in primo piano del Déjeuner sur l'herbe? Dove guardano la donna di Olympia o Berthe Morisone, Les Balcons? O ancora la donna de Le Chemin de Fer e infine la donna che sta al banco del Bar Folies Bergères. Émile Zola si è preoccupato di sottolineare l'intelligenza, la grazia e il carattere tranquillo di Manet, uomo che mostra nei suoi modi e nella voce la più grande modestia e la più grande dolcezza. Aggiunge: «L'artista mi ha confessato che adora la società e che prova profondo piacere nelle delicatezze profumate e luminose delle serate mondane». Zola, evidentemente, cercava di tranquillizzare e sedare l'accanimento che accompagnava ogni esposizione di Manet. Bataille, confermando il carattere tranquillamente borghese di Manet, parla anche di un'imbarazzante timidezza morale che fa sì che egli, Manet, presentando nel 1867 l'esposizione che lui stesso aveva organizzato delle sue opere in Place de l'Alma, affermi in terza persona che Monsieur Manet non ha mai voluto protestare e non ha avuto la pretesa di rovesciare la pittura del passato né di crearne una nuova. È come se Manet avesse un lato luminoso e tranquillo da esibire e un'inquietudine che si è celata nell'opacità di quegli sguardi, quello dell'Olympia o quello di Berthe Morisot, in cui, come scrive Roberto Calasso, è possibile intravedere il lato oscuro, lacerato, abissale di Manet. Venendo all'arte contemporanea, a Napoli, presso il Museo Archeologico Nazionale, fino al 5 giugno è in corso La vita e la maschera, da Pulcinella al clown, mostra personale di Alessandro Kokocinski, che è un artista italiano di origine polacche, con il catalogo di Schirà. E in questa occasione vi segnalo il libro dedicato a Kokocinski di Tiziana Gazzini, il sottotitolo è Vita straordinaria di un artista, pubblicato da Edizioni Clichy, 196 pagine, 18 euro. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il titolo di un'autrice molto popolare, ormai Silvia Valloni, che ha scritto Da dove la vita è perfetta, pubblicato da Mondadori, 380 pagine, 19 euro. Questo è un romanzo ambientato a Bologna, in un quartiere periferico, dove si intrecciano le storie di genitori, figli e aspiranti genitori. Poi vi segnalo due libri su due città. La prima è Berlino, vista nel suo momento più drammatico, cioè la caduta del Reich, che viene raccontata da Heinz Rein, un autore tedesco. Questo in realtà è lo pseudonimo di Reinhard Andermann, un autore morto nel 1991, che era stato perseguitato dal nazismo, poi era diventato cittadino della Germania orientale fino alla rottura e al trasferimento nella Germania Ovest. Il libro si intitola Berlino, ultimo atto, pubblicato da Selleri, 886 pagine, 18 euro, curato da Mario Rubino. Un libro del 47 che non ebbe all'epoca molto fortuna, trascurato per molti anni, che racconta una questione difficile, ossia quella della resistenza dei tedeschi al nazismo, vista attraverso l'esperienza e la difficile condizione di un gruppo di clandestini disertori della guerra, attraverso i quali scorrono le immagini della Berlino di quei mesi terribili. Infine Milano, la cui origine è ricostruito nel romanzo storico di Michele Gazzo, che è un esperto di Celti, che ha scritto Mediolanum, la conquista dei Celti, pubblicato da Centauri, a 404 pagine, 19,50, che racconta le vicende dalle quali nel 585 a.C. nacque la città dalla quale adesso vi parlo. E a questo punto... Il confettino. Siamo in piena primavera e quindi vi segnalo di Gerda Müller La festa dei frutti, pubblicata da Baba Libri, tradotto da Isabella Riva Macerata, 36 pagine, 14,50 €, che è un libro che ci racconta di tanta frutta che arriva sulle nostre tavole, in particolare proprio in questa stagione, ma sono frutti che vengono da tutto il mondo e che qui troviamo descritti, di cui troviamo con bellissime illustrazioni anche spiegata l'origine e il modo in cui raggiungono le nostre tavole. Con questo vi ringrazio e ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.